Albetta, confessa! Vivando un biglietto ricorda di mio! Io salgo, è uscito, il servo mi lascia un istante, che porrà il piretto, è bravo! Che dice? Ti attendo stasera al denare! Thank you. Oh!

mia madre, muto è il fratello. E con dispaccio è di mio fratello al cerco. No, di Borov. Vai la grazia! La tua grazia! Figlia mia! Oh, pianta andare! Amore, fratello! O dolce casa abbandonata, oh, mia! Qui sarò fuori, mi è concesso al dire. E tu mi seguirai fino all'altare, ma Fedora abbia buttati la sorte ancor difficile. Farò fieri ad Parigi, oggi stesso qui sarà, forse giunto che hai smemorato, mi scordavo delle lettere. Precedente questa lettera, il dispaccio. Iarischin recò all'imperatore la prova trionfale del tuo delitto, la confessione tua stessa insieme al nome dei complici, i miei complici. Chi sono? Valeriano, mio fratello, lui, o quale infamia? Quella lettera è scritta da una rossa dimorante a Parigi, segnò col nome di battesimo, ma la scopriremo, mi recherò la lettera. Conoscerò la mia nemica al fin. Iarischin, resto comandò di tuo fratello, Valeriano restato. La fortezza, il fossato, nella notte affogata. Mia madre, madre mia! Morti per me, morti innocenti. E quella donna, la madre del Castiglio che mi segue sempre ovunque, ma la breva colei partia! Perché Fedora da me ti scosti? Oh, non lasciarmi! Piangi con me. che le avevan fatto mia madre e mia fratella. Forse non te li piace, forse essi entrena nella sua cenetta rabbia e nel suo thank you. 这里是歌舞剧场，今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费朵拉》，由莫纳科费比沃、高比卡夫契利等演唱，意大利蒙特卡罗歌剧院合唱团乐团演出。感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Thank you. come se tu mentissi i medici ancora chi mi dà certezza lui stesso lo dimero ecco la prova leggi anima mia la sua scrittura io rispondo ma Lucia